Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, eccoci nuovamente insieme pronti per una nuova puntata di Obiettivo Salute. In regia oggi abbiamo Peter Bescapè, in assistenza Alessandro Marco Tulli, in redazione Alessandra Vanossi. Ringrazio naturalmente in apertura i colleghi per il loro lavoro e passo subito a darvi il numero 349-238-6666 per intervenire in diretta con le vostre domande, le vostre richieste, i vostri dubbi, ma anche i vostri suggerimenti, perché l'obiettivo è costruire o recuperare una quotidianità capace di nutrire la nostra salute, il nostro benessere, insomma di farci stare bene, nonostante l'isolamento, i timori, le preoccupazioni e il virus, il nemico invisibile con cui dobbiamo imparare a fare i conti. Quindi ripartiamo dal nostro stile di vita. In linea con noi per aiutarci abbiamo il dottor Franco Berrino, epidemiologo, già direttore del Dipartimento di Medicina Preventiva e predittiva dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, nonché autore di numerosi libri, tra cui La Via della Leggerezza e 21 giorni per rinascere. Dottor Berrino, che bello, che grande regalo. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, cara. Dottor Berrino, noi abbiamo ancora qualche giorno prima della fase 2, possiamo utilizzarlo per attrezzarci e prepararci per la ripresa, ritornando o perché no, recuperando alcune buone abitudini che possono aiutarci a vivere meglio, più sani e a lungo. Ma dottor Berrino, il nostro stile di vita condiziona la nostra salute, il nostro benessere e la nostra longevità. Ma ci sono studi epidemiologici che lo dimostrano? E come se ci sono? Ci sono studi su centinaia di migliaia di persone. I grandi studi epidemiologici che hanno pubblicato i loro risultati negli ultimi 20 anni e mostrano chiaramente che chi ha un'alimentazione, per esempio, ricca di fibre vegetali, le fibre dei cereali integrali, per esempio, muore meno. A parità di età, naturalmente, a parità di tabacco, a parità di altri fattori che influenzano la mortalità, muore meno di diabete, muore meno di cancro, muore meno di infarto, muore meno anche di malattie neurodegenerative, muore meno di malattie dell'apparato digerente e muore meno anche di malattie infettive. È sufficiente mangiare 50-100 grammi di cereali integrali ogni giorno per ridurre del 25% il rischio di prendersi una malattia infettiva. E questo vale anche per l'influenza, vale anche per il coronavirus. E per cui diffondiamo questa informazione, non è stata diffusa dalle autorità, ma diffondiamola noi. Gli studi sono molto molto chiari che possiamo, ma come fanno le fibre a proteggerci dall'influenza? Ma che senso ha? Perché le fibre sono il nutrimento dei microbi che vivono nel nostro intestino. Nel nostro intestino vive un esercito di microbi, sono molte, molte migliaia di miliardi di microbi che lavorano per noi, che mantengono sano il nostro sistema immunitario. E allora sono andato, io non mi occupo di malattie infettive, io mi occupo di cancro, come sapete, però sono andato a cercare nella letteratura scientifica se c'erano degli studi sulla funzione dell'intestino e l'influenza. Sì. Ebbene ci sono, ma soprattutto ci sono sui topi, perché i topi si possono ammalare di influenza, ci sono tutti i sistemi sperimentali, e si è visto che se noi trattiamo i topi di laboratorio, li trattiamo con degli antibiotici, è più facile che si prendano l'influenza e che l'influenza sia grave. E sai, i topi di laboratorio mangiano abbastanza male, mangiano anche fibre, però mangiano sempre tutti i giorni la stessa cosa, lo stesso biscottino che è stato studiato per avere tante proteine, tanti grassi, tanti carboidrati, eccetera. Ma gli manca proprio la varietà del cibo. La varietà del cibo è quello che serve per nutrire l'enorme varietà di microbi buoni che ci sono nell'intestino. Ebbene, allora hanno fatto un esperimento. Hanno preso. E cosa hanno scoperto? Hanno preso la cacca di topolini selvatici e l'hanno trapiantata per via rettale nei topolini allevati di laboratorio e hanno visto che questi topolini si ammalavano molto di meno, perché avevano una maggiore varietà della flora intestinale. Sono studi affascinanti, sono studi bellissimi, e molto probabilmente valgono anche per noi, ma non abbiamo bisogno di prendere la cacca di un selvaggio. È sufficiente. Meno male, dottor Berrino, sarebbe un po' complicato. È sufficiente mangiare una varietà di cibi che siano ricchi di fibre, che siano ricchi del cibo che nutre i batteri buoni dell'intestino. Gli studi sono molto convincenti. E poi tante altre cose. Dottor Berrino, quando lei dice fibre, ha parlato di cereali integrali. E anche le verdure. C'è uno studio sui bambini, uno studio che ha mostrato, uno studio fatto in Danimarca, dove a dei bambini hanno proposto una dieta particolare dove ci fossero verdure verdi 5 giorni alla settimana. Ma c'era anche la carne, c'era anche il burro, il pane bianco, eccetera, però c'erano le verdure verdi. Non era certo una dieta che io raccomanderei, quella che hanno usato, però questi bambini probabilmente in Danimarca mangiano molto raramente verdure e confrontati con i bambini del gruppo di controllo si sono ammalati meno di influenza. Quindi mangiamo i cereali integrali e mangiamo una varietà di verdure. Oggi l'orto è ancora molto ricco, ci sono ancora i prodotti dell'orto invernale che sono meravigliosi, tutte le varietà di cavoli, ma ci sono le insalate, ci sono i carciofi, è il periodo dei carciofi, i carciofi sono meravigliosamente buoni e sono ricchissimi di fibre. E poi ci sono le ultime zucche, poi ci sono, ma c'è un sacco di roba. E allora non mangiamo sempre solo la stessa verdura. Non la solita minestra, dottor Berrino, verrebbe da dire, ma variamo. Cambiamo minestra tutti i giorni. Dottor Berrino, in questi giorni di isolamento la nostra quotidianità è cambiata e probabilmente anche la nostra alimentazione. C'è chi è tornato in cucina ed è un suggerimento che lei dà spesso e ha riscoperto i piatti. Di tornare in cucina, certo. E quindi ha riscoperto i piatti della tradizione. C'è chi invece ha relegato un po' il momento del pasto a un bisogno da secondare così alla veloce senza pensarci troppo né sprecare fatica. Allora le chiederei, abbiamo visto quanto sia importante portare le fibre nel nostro piatto, ma credo che sia altrettanto importante, lei lo spiega bene nei suoi libri, riprendere o apprendere buone abitudini, direi fondamentali, ad esempio rispettare gli orari. Dottor Berrino, perché è importante mantenere gli orari dei pasti? E soprattutto questo è un invito che facciamo, perché l'isolamento ci fa un po' dimenticare l'orologio, invece ogni cosa ha il suo tempo, dottor Berrino, perché? Ma guardate, perché il nostro organismo funziona sempre con il ritmo del sole, per cui il momento migliore per fare un pranzo abbondante è al mattino, la colazione è bene che sia un pasto abbondante, è il momento di massima, secondo le tradizioni della medicina orientale, è di massima energia del nostro tubo digerente, dello stomaco e dell'intestino, per cui facciamo una colazione abbondante. Io stamattina ho mangiato un uovo fritto, perché c'è un'amica che aveva il permesso di venire a Milano per andare a fare delle visite mediche e allora mi ha portato le uova del suo pollaio e poi ho mangiato il riso, ho fatto saltare il riso avanzato con dell'uvetta sultanina e con delle mele perché avevo voglia di mangiare qualcosa di dolce e poi ho mangiato uno yogurt di latte da fieno, fatto con latte di mucche che pascolano, con un cucchiaio di composta di mele dentro, senza zucchero naturalmente. E insomma, fate una buona colazione. Buonissima colazione. Dottor Berrino, io sono diventata ormai, posso dire, mi vanto un po', una grande esperta, perché delle ricette delle cecine del dottor Berrino ho apportato anche delle modifiche, quindi alla farina di ceci aggiungo quella di castagne, un po' di farina di mandorle. Tra l'altro tutte le sue ricette sono contenute, questo lo ricordo agli amici che ci stanno ascoltando, nel libro 21 giorni per rinascere, perché con le sue ricette lei ha dimostrato che mangiare bene non significa rinunciare al gusto, anzi scoprire degli abbinamenti straordinari. E questo quello che abbiamo fatto delle esperienze anche, abbiamo fatto questi 21 giorni per rinascere, cioè abbiamo invitato le persone a passare 21 giorni con noi e lo faremo ancora, e non appena potremo riaprire la mausolea, il meraviglioso monastero che i monaci di Camaldoli ci hanno messo a disposizione, e in 21 giorni mangiando cose buone, ma di gran gusto proprio, mangiando una colazione abbondante e una cena leggera, è bene avere una cena leggera, e facendo attività fisica e lavorando anche. Ecco, dottor Berrino, venivo qua prima di, proprio per così abbiamo toccato lo stile alimentare, ma ecco, l'attività fisica chiusi in casa è un po' complicato. Noi sulle pagine di Obiettivo Salute abbiamo però postato degli esercizi guidati da Viviana Ghizzardi, abbiamo fatto le coreografie addirittura con una ballerina solista, proprio per muoverci. Possiamo muoverci anche a casa nostra, seduti in poltrona. Anche a casa nostra. Guarda, io tutte le mattine salgo dai miei amici Carmen e Piero di sopra, che hanno un grande schermo, e facciamo ginnastica aerobica. Facciamo 40 minuti di ginnastica aerobica ed è una cosa bellissima. E normalmente non facevo questo, andavo in giro a passeggiare, naturalmente adesso siamo un pochettino bloccati, anche se bisognerebbe aprire a passeggiare a persone consapevoli che vanno a passeggiare e non vanno a chiacchierare in giro, perché questo ci può aiutare, e anche le persone anziane sarebbe bene che facciano attività fisica, e da soli può essere un pochettino noiose. Noi abbiamo fatto questa cosa, ci riuniamo, no, al piano di sopra per fare questo esercizio quotidiano. Con le distanze adeguate, con le mascherine. Ma certo, nessun problema. Possiamo proteggerci e poi una cosa importante per chi è minimamente introdotto è fare una pratica di yoga, perché lo yoga è fondamentalmente una pratica spirituale. Allora, certo, perché è vero, dottor Berrino, perché noi diciamo siamo quello che mangiamo, ma non di solo pane vive l'uomo, quindi è importante coltivare e dare voce a mente, cuore e spirito, come insegnate nel libro La via della leggerezza. Insomma, sono preparata, li ho letti tutti i suoi libri, dottor Berrino. Brava. Li so quasi a memoria. Dottor Berrino, io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buona giornata e spero che venga a trovarci prestissimo, o in linea o di persona. L'abbraccio forte, grazie dottor Berrino. Grazie a voi, grazie a Radio 24, buongiorno. Un abbraccio, grazie. Noi andiamo a sentire le informazioni sul traffico e poi ritorniamo subito dopo insieme. In linea vedo già Valerio Rossi Albertini, conosci il tuo nemico. Parleremo con lui tra poco dei dispositivi, come utilizzarli bene. A tra poco. Promo 24. Smart working, un'espressione che abbiamo ormai imparato a conoscere. Significa poter lavorare da casa o da qualunque posto, ma bisogna essere attrezzati con la tecnologia adatta. Conosci Claudia di Enfon? Claudia è il centralino in cloud che ti permette di portare il tuo numero fisso aziendale sempre con te. Non solo, puoi fare e ricevere chiamate su ogni device, anche smartphone e computer, esattamente come se fossi in ufficio. Provalo subito. Se diventi cliente entro il 30 aprile, hai Claudia gratis per 2 mesi e puoi disdire quando vuoi, senza penali. Vai su enfon.com/promo per scoprire tutti i dettagli del servizio e dell'offerta. Richiedi l'attivazione. Il servizio sarà attivo in 24 ore. www.enfon.com/promo. Obiettivo salute. Eccolo, è tornato a trovarci il professor Valerio Rossi Albertini, fisico, chimico, primo ricercatore al Consiglio Nazionale delle Ricerche e docente di divulgazione della scienza all'Università Roma 2. Insomma, siamo irresistibili, professore, difficile restare lontani da noi. Buongiorno. Ricordo che il professor Rossi Albertini ha appena pubblicato Conosci il tuo nemico, per un manuale, un libretto di istruzioni per aiutare a fare chiarezza sul SARS-CoV-2. Mi piace ricordarlo perché, professor Albertini, tutto il ricavato verrà devoluto al Policlinico di Modena. Sì, è così. In questo momento difficile, drammatico per alcuni versi, credo che ognuno debba dare il proprio contributo, il mio è un contributo piccolo perché sono i proventi della vendita di un ebook che costa pochi euro, ma soprattutto il contributo che mi sono sentito di dare è di informazione a tutti coloro che stanno dentro casa confinati in questo periodo, molti dei quali sono giustamente in apprensione. E per evitare che si arrivi a degli eccessi, cioè gente che mi scrive e dice io sono diventato fobico, io sono diventato paranoico, pulisco tutto, lavo tutto, igienizzo, sanifico, capire che cosa è effettivamente utile e cosa invece è assolutamente superfluo è importante. Assolutamente importante, infatti io sono molto contenta che lei abbia scritto questo libro da cui noi possiamo trarre degli spunti e poi averla in onda per aiutarci a capire che cosa esattamente bisogna fare, perché è probabile che abbiamo tante cautele per delle cose e poi magari cadiamo, inciampiamo nella classica buccia di banana che va a vanificare tutte le nostre attenzioni, perché i dispositivi, come lei spiega bene nel libro, bisogna usarli correttamente, perché sennò in qualche modo possono addirittura nuocerci. Nell'altro nostro incontro abbiamo parlato delle mascherine, ci siamo focalizzati sulle mascherine chirurgiche. Oggi, professore, vorrei chiederle qualche indicazione sui guanti. Sì, i guanti sono... Che mi dice dei guanti? Allora, i guanti sono un dispositivo importante naturalmente, però appunto ricordo sempre con una metafora che guanti e mascherina sono l'equivalente della cintura di sicurezza in macchina, cioè per prima cosa dobbiamo ricordarci che non ci rendono invulnerabili. Le cinture di sicurezza in macchina sono utilissime, sono risolutive per piccoli incidenti, invece se si ha un grande incidente no. Quindi bisogna evitare di mettersi nelle condizioni di fare il grande incidente, così con le mascherine e con i guanti. Sono utili, ci proteggono, ma come per le mascherine è necessario comunque rispettare le distanze di sicurezza, così i guanti vanno utilizzati nella maniera opportuna, perché appunto possono essere controproducenti. Se uno la cintura di sicurezza, anziché metterla di traverso sul petto, se la mette intorno alla gola, addirittura può essere... può essere essa stessa fonte di danno. E così i guanti non devono darci una falsa sensazione di sicurezza. I guanti servono per evitare il contatto delle mani con le superfici esterne, ma attenzione, perché non sono le mani la via di intromissione, la via di ingresso dei germi, in questo caso del coronavirus, all'interno del nostro organismo. Non c'è nessun pericolo a toccare con le mani, a meno che non siano ferite, una superficie anche contaminata. L'importante è poi lavarsi bene le mani. Quindi i guanti sono utili perché ci evitano di lavarci forsennatamente le mani come sarebbe necessario nel caso in cui, non avendo i guanti, avessimo il sospetto di aver toccato le superfici contaminate più volte al giorno e quindi essere costretti a lavarci le mani col sapone più volte al giorno. Perché mentre è molto remota la probabilità che veramente la superficie sia contaminata e che quindi noi toccandola possiamo a nostra volta accogliere questi germi, mentre invece è molto probabile che continuando a lavarsi le mani possiamo avere degli effetti avversi, ad esempio delle dermatiti, certo. Perché noi abbiamo una protezione naturale sulle mani, una secrezione sebacea, lipidica, grassa, che ci protegge e blocca anche i germi, perché il grasso, certo, che abbiamo sulle mani impasta sia i germi che la sporcizia, quindi evita che se ne vadano in giro. Ora, ogni volta che ci laviamo le mani rimuoviamo questo strato che deve essere riprodotto, ma il corpo impiega del tempo per produrre un altro strato di grasso di protezione e nel frattempo siamo esposti non al coronavirus ma comunque ad aggressioni di germi. Quindi il lavaggio delle mani è necessario ogni qualvolta siamo stati in giro, abbiamo toccato oggetti di cui non conosciamo la provenienza. Però se è possibile evitare di lavarsi ripetutamente, forsennatamente le mani, è meglio. Ecco che entrano in gioco i guanti. I guanti sono una specie, sotto metafora, di guaina artificiale, di protezione tipo quella sebacea, tipo quella lipidica, ma ulteriore, esterna. Quindi sono una specie di esoscheletro i guanti, però attenzione, perché i guanti comunque sono, diventano ricettacolo di germi. I guanti non sanificano, non è che se tocchiamo una superficie contaminata con i germi muoiono. No, no, rimangono sulla superficie dei guanti. E quindi tutte quelle cautele, tutte quelle precauzioni che prendiamo a mani nude le dobbiamo avere anche quando abbiamo i guanti. Con i guanti non ci possiamo toccare il viso. Ricordo che le vie d'ingresso del coronavirus all'interno dell'organismo sono naso, bocca e occhi. E occhi. Non sono altre parti del corpo. Messaggio ricevuto, professor Rossi Albertini. Io spero di averla con noi la prossima settimana per un'altra indicazione, un altro suggerimento. Intanto ricordo il titolo del suo libro, Conosci il tuo nemico, Longanese Editore. Professore, buongiorno e grazie. Buongiorno a voi e buongiorno agli ascoltatori. Apriamo il nostro spazio di vero e falso e in linea con noi è tornato a trovarci il professor Antonio Cascio, che è ordinario di malattie infettive tropicali dall'Università di Palermo e direttore dell'unità operativa complessa al Policlinico. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno a voi. Questo è uno spazio che noi facciamo proprio grazie alla collaborazione degli esperti della SIMIT, la Società Italiana di Malattie Infettive Tropicali, che ci aiutano a vederci chiaro. Professore, partiamo dalle zanzare. Le zanzare possono trasmettere il virus, vero o falso? Abbiamo un minuto di tempo. Sì, allora è falso. Non c'è nessuna documentazione che questo possa avvenire o che sia avvenuto in passato per altri coronavirus. Ci sono dei virus che possono essere trasmessi dalle zanzare, vedi per esempio il virus dengue o altri virus tropicali, però bisogna stare attenti, in quei casi il virus replica all'interno della zanzara. Quindi non è che semplicemente il virus succhia il sangue di una persona con una patologia virale e poi punge un'altra persona lo può infettare. No, il virus deve replicare all'interno della zanzara e per poter replicare all'interno della zanzara occorrono tantissime condizioni particolari che di fatto non si hanno e che non sono state mai documentate e ritengo sinceramente che non saranno mai documentate in futuro. Tra l'altro, in tutto ciò bisogna dire che il virus nel sangue del paziente che ha il coronavirus lo si riscontra molto molto difficilmente. In uno studio cinese il virus è stato riscontrato soltanto nell'1% dei casi. Quindi cosa dovrebbe succedere? Che appunto che il virus essere nel sangue, la zanzara pungere, la zanzara succhiare sì, diventa un po' complesso. Quindi, poi, fra l'altro, la professor Cascio, la risposta è falso? No. Falso. Grazie professor Cascio, noi ci sentiamo domani, sempre alle 10:30. Buona giornata.